Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi. A cura di Massimo Fierro. Questo episodio è dedicato a Vittorio Arrigoni, morto a Gaza un giorno fa. Vittorio era un uomo che amava la Palestina e i palestinesi. Vittorio è stato ucciso da pochi palestinesi che non lo capivano, mentre cercava di aiutare tanti altri palestinesi che lo consideravano un amico. Vittorio era un uomo che io non ho mai conosciuto, ma che in qualche modo sentivo vicino, grazie all'intervista realizzata da quei due mattacchioni di Nowherecast, che ogni tanto qualcosa di serio lo fanno. Vittorio era un uomo. Restiamo umani. Il gioco degli immortali. Romanzo di Massimo Mongai. Capitolo secondo, parte seconda. Ormai ero ben piazzato. Sotto la piattaforma scavai una cisterna che impermeabilizzai con muschio, foglie, malta e fieno, in un modo molto rozzo ma efficace. Avevo ancora molti fogli di plastica a disposizione, ma preferivo usare materiali naturali che reperivo intorno a me. Un piccolo tubo vi portava l'acqua ed un altro ne portava fuori l'eccesso. Avevo così una riserva d'acqua anche in caso d'assedio. Chiusi i muri intorno e sotto alla piattaforma con rocce e rovi secchi e coprii di piantine di rampicanti e di rovi tutta la base della casa ed altri punti strategici, con la prospettiva di riuscire in poco tempo a coprirla tutta. Avevo ormai a disposizione una capanna di tronchi quasi completamente mimetizzata, e che, con la prossima stagione, se i rovi attecchivano, lo sarebbe stata completamente. Con all'interno un camino di sassi fissati con una maltaccia di fango e fieno, la cui cappa finiva nella grotta. Il fumo si disperdeva, dopo essere passato all'interno della grotta stessa, da tre diverse uscite, più a monte, e di modo tale da essere praticamente invisibile. Ero perfettamente mimetizzato. Solo chi mi fosse capitato letteralmente addosso, per caso, mi avrebbe potuto vedere. Continuai a cacciare ed a mettere da parte quanta più selvaggina potevo per affrontare l'inverno. Le carni le affumicavo nella grotta ed avevo visto che si mantenevano bene. Avevo trovato anche varie ricette di cibi da sopravvivenza in un libro sul ritorno alla natura che avevo comprato anni prima ma non avevo mai letto seriamente e che mi ero fatto ristampare dal computer. Fra questi la ricetta del pemmican, il cibo invernale degli indiani nordamericani, pesce secco affumicato e sminuzzato con carne secca. Non era granché, ma era cibo che non si rovinava. Il pesce lo pescavo con facilità in uno dei molti laghetti formati dal torrente più a valle. Trovai perfino dei salmoni. Nei contenitori di canna impermeabilizzati con foglie aromatiche e secche conservavo diversi tipi di marmellate di bacche. Non sapevo quanto sarebbero durate e restate commestibili, ma c'erano buone speranze. Le marmellate le avevo fatte bollendo le bacche dapprima nelle pentole che avevo portato con me, poi in recipienti di coccio che mi ero fabbricato da solo, quando avevo scoperto della creta in un'ansa del torrente. Usavo i vasi di vetro che mi ero portato appresso, ma, di nuovo, cercavo una tecnologia compatibile con l'ambiente in cui ero. Nel frattempo mangiavo ingordamente anche al di là della fame e soprattutto il più grasso che potevo, con il dichiarato scopo di ingrassare, proprio come fanno gli animali che vanno in letargo. Frutta secca, funghi secchi, pezzi di carne cotti e conservati nello strutto ricavato dal grasso degli animali che uccidevo. Insomma, passai tutta la primavera, l'estate e parte dell'autunno a fare provviste, legna compresa. E feci bene. Non avevo idea di quando sarebbe arrivato il freddo e di quanto forte sarebbe stato. Potevo legittimamente supporre che sarebbe stato simile a quello delle montagne europee o nordamericane corrispondenti, tipo Centro Europa o Nord degli Stati Uniti, il che significava anche 30 gradi sotto zero. Quando arrivò, fu pesante. Fossero meno 30 o meno 40, non saprei dirvi. Non avevo pensato a chiedere alla macchina un termometro da esterno. Fu freddo, ma molto freddo. Per fortuna avevo conservato e conciato alla meno peggio con il sale ed il sole tutte le pelli degli animali che avevo ucciso e le avevo cucite grossolanamente tra loro. Quando calava il sole andavo a letto vestito, dentro il mio sacco a pelo di piume e sotto una pila di pelli, con fuori appena un pezzetto di naso per respirare. Ed avevo freddo. La mattina non mi alzavo finché il sole non era alto, accendevo il fuoco e tornavo sotto le pelli, e solo quando un po' di tepore si diffondeva nella mia capanna, mi alzavo e mi organizzavo la giornata, che consisteva per lo più nel mangiare, nel fare un po' di movimento per non paralizzarmi del tutto. Provai anche a scrivere e a tenere un diario, ma non durò a lungo, così come la lettura non mi aiutò, anzi. Leggere di un mondo che potevo considerare perso per sempre mi deprimeva. Ero arrivato infatti alla conclusione che per poter mantenere un minimo di salute mentale alla Terra non ci dovevo pensare più. Questo era il mio mondo e qui dovevo restare. Quando avessi avuto qualche informazione in più su quello che mi era successo, avrei potuto... Cosa? Niente. Non avrei potuto quasi sicuramente fare niente, quindi tanto valeva non pensarci più. Per la prima parte dell'inverno uscii raramente dalla capanna. Man mano che il freddo si fece più forte, mi passò proprio la voglia di uscire. Passato l'equivalente del solstizio invernale di quel pianeta, quando le giornate cominciarono a allungarsi di nuovo, cominciai ad uscire più spesso ed a trovare perfino bello il luogo in cui ero. La neve copriva tutto, ovviamente, ma era una neve strana. Per non so quale fenomeno, non era una neve tutta e soltanto bianca. Forse cristalli minerali presenti nel pulviscolo atmosferico, forse una particolarità d'altro tipo nella luce del sole di quel sistema. Non so. Il risultato era che la neve era bianca, sì, ma percorsa da incredibili striature di colore appena accennate, molto flu, tenui ma con tutti i colori dello spettro. Il risultato era, sotto il sole, soprattutto all'alba e al tramonto, una variegatissima serie di colori cangianti. La conseguenza più spettacolosa erano le pellicce invernali degli animali, anch'esse variegate di bianco e colori tenui, e spesso cangianti. Che fosse un adattamento naturale o voluto da qualcuno, quegli animali avevano delle pellicce incredibili, che sulla Terra sarebbero costate 100 volte quelle normali. Grazie a questa loro mimetizzazione erano bellissimi e difficilissimi da identificare, sia le prede che i predatori, che peraltro non erano molto pericolosi per me, per fortuna. Lupi ed aquile per lo più. A queste non interessavo, e quelli non si fecero vedere, anche se ne vidi un branco una delle poche volte che uscii dal recinto, a valle peraltro. Avevo visto degli orsi d'estate, ma essendo tutti scomparsi dovevano essere andati in letargo, come i loro omologhi terrestri. E meno male, un esemplare maschio di orso, che a primavera vidi a 200 metri da me, sarà stato alto almeno 3 metri. Per il resto sembrava un normalissimo grizzly. Voglio dire, non sarebbe stato strano a quel punto trovarsi di fronte ad un Ursus speleus, l'orso delle caverne estinto 30.000 anni fa. Avete presente? Vivevo nel terrore di incontrarne uno. La fortuna mi aveva aiutato nella scelta del luogo in cui costruire la capanna. Era riparata dai venti dominanti nella zona, per cui le tempeste non erano mai troppo turbolente, e da parte i 45 giorni più duri, poi fu possibile vivere abbastanza confortevolmente. La solitudine mi spinse alla depressione dapprima, poi alla meditazione. Dato che dormivo, mangiavo e non facevo quasi nulla, presi l'abitudine di stare il giorno seduto a meditare, a fare esercizi di respirazione yoga, a cercare di concentrarmi su progetti, programmi, sul mio futuro in quel pianeta. All'inizio fu soprattutto per rilassarmi e per passare il tempo, poi divenne una esperienza che non esiterei a definire mistica. Ero 7-8 ore al giorno in contemplazione di una natura dura e spietata, ma anche bellissima, ed il risultato fu una crescente sensazione di integrazione, direi, di inserimento nella natura. Ebbi delle visioni, non saprei come definirle altrimenti. Animali, colori, alberi tutti intorno a me sembravano parlarmi, interagire con me. Ogni mattina mi alzavo, uscivo e salutavo, in silenzio, con gesti e pensieri, senza parole, un grosso abete che era oltre la barriera e gli chiedevo com'era andata la notte e lui, in qualche modo, mi rispondeva. Erano probabilmente allucinazioni da solitudine e da troppo ossigeno, Certo, ma non ci credetti allora e non ci credo ora. Era semplicemente un momento di pausa nella mia vita, come non ne avevo mai avuti prima e come non ne ebbi mai dopo, nel quale mi era dato tempo e pena per sentire la vita che scorreva intorno a me. A primavera decisi di avventurarmi verso valle. Mi ero fabbricato delle racchette da neve e con il mio equipaggiamento mimetizzato mi avventurai verso il basso. Seguii il torrente, per lo più, e dopo 2 giorni giunsi a valle, segnando regolarmente la strada che facevo con segni apparentemente casuali sui tronchi, o almeno speravo potessero apparire casuali. A valle faceva molto più caldo, il sole batteva più a lungo e più forte, ed in fondo alla vallata, che si affacciava su una pianura più lontana e più grande, intravidi campi coltivati ed un villaggio fortificato. Quella vista mi emozionò e mi spaventò anche. Avevo un fortissimo desiderio, me ne accorsi solo allora, di andare incontro a degli esseri umani, ma al tempo stesso avevo la paura di chi sa cos'è la sensazione della morte, e non intendevo ripeterla per niente al mondo. Mi misi ad osservare a distanza il villaggio, con il potentissimo binocolo che la macchina mi aveva fornito. Essendo dotato di visione notturna, potevo studiare il fortino anche di notte. Sembrava essere un avamposto di confine, con vicino capanne di coloni, gente che si era avventurata sin lassù da qualche altra parte del pianeta. Erano evidentemente a guardia del passo che portava nella vallata più grande, cui si arrivava dopo aver passato la catena di montagne su cui sorgeva la mia capanna, e dall'altro lato del quale ci doveva essere un'altra pianura, e forse una qualche civiltà. Gli occupanti del fortino erano evidentemente guerrieri. Portavano armature di cuoio e metallo, con corazze, spallacci e gambali, una via di mezzo fra le armature di un legionario romano e quelle di un soldato del Rinascimento. Portavano armi bianche quali spade, scuri, asce da combattimento, mazze, lance e balestre di 2 tipi, una leggera e portatile, evidentemente da combattimento ravvicinato, ed una più grossa, che tirava verrettoni più lunghi e pesanti ed evidentemente più letali. Sembravano armi di acciaio o come minimo di ferro battuto, quindi tecnologicamente già evolute, molto più dei selvaggi che avevo incontrato la prima volta. Da quel che potevo vedere con il mio binocolo, nel forte sembrava ci fosse anche una popolazione mista, tipica dei luoghi di frontiera. Da lontano sembravano mercanti, prostitute, schiavi, viaggiatori di tutti i tipi. I costumi e gli abiti erano i più diversi, da quelli quasi familiari, pantaloni e corsetti e gonne, a quelli più strani, come tute intere a disegni astratti, fino alla nudità quasi totale. Altri elementi come gioielli, ornamenti, trucco, seguivano la stessa apparente anarchia totale di stili. Non sapevo che fare. Aspettare? A che scopo? Rischiare l'incontro? Con quali prospettive? Quello era un posto di frontiera, dovevano essere abituati agli stranieri. Ma io, quanto lo ero? Quanto ero alieno per loro? In che lingua ci avrei parlato? Decisi di aspettare ancora un po'. Rimasi così nella zona, cacciando e sempre sorvegliando quello che accadeva, per altri 5 giorni, senza che accadesse niente e senza prendere una decisione. Il 6° giorno, di mattina, ero al torrente, lontano dal forte ma relativamente vicino alla strada che vi arrivava e ne veniva, a cercare di pescare una specie di salmoni con una barriera di canne ed un cesto di vimini improvvisato, quando udii dei rumori sul greto poco più a valle, in un punto dove sapevo esserci un guado. Mi nascosi, maledicendo il fatto di aver lasciato Luzzi nell'accampamento 200 metri più a monte. Ero sceso alla barriera per vedere se avevo catturato qualcosa, con l'idea di tornare subito e non mi ero portato appresso nessuna arma, come avevo solo un coltello. I rumori aumentarono, ed erano chiaramente rumori di lotta. Non resistetti alla curiosità, mi avvicinai e vidi un gruppo di armigeri del forte che aveva bloccato un carro. A terra alcuni uomini morti, in abiti colorati, e fra essi un paio di bambini forse decenni, ed uno degli armigeri. Altri 3 armigeri stavano finendo di uccidere in un modo orribile uno degli uomini, mentre gli altri, 7 o 8, stavano violentando 3 donne. Rivedere da vicino degli esseri umani era già uno shock in sé per sé. Assistere ad una scena di violenza così spropositata ed apparentemente perfino banale per quegli uomini lo fu 100 volte di più. Non pensai, non decisi, fu tutto molto automatico, come se i mesi passati da solo avessero contribuito a creare un nuovo me stesso. Fra l'altro, in questi mesi, oltre a cacciare, mi ero allenato al tiro al bersaglio, proprio per cacciare meglio. mi era allenato a portare pesi ed il lavoro mi aveva irrobustito in modo veramente notevole. Ero magro, scattante e forte come non ero mai stato in vita mia. Mi allontanai in silenzio e lentamente, poi corsi veloce al mio campo. Raggiuntolo senza nemmeno pensare a quello che stavo facendo, indossai il giubbotto antiproiettile di fibra. Presi l'Uzi, la carabina telescopica e dei caricatori e corsi verso il guado. Ero pieno di rabbia per quello che avevo visto. Mi ero ovviamente identificato, anche troppo, e non ci avevo pensato un secondo. Avevo deciso d'istinto. Dovevo fermare quegli assassini e l'unico modo era ammazzarli. Stavolta non avevo dubbi o esitazioni. Quando li raggiunsi, ansante dietro un dosso, mentre regolavo e caricavo la carabina, mi resi subito conto che l'uomo torturato era evidentemente morto. Una delle donne non gridava nemmeno più e quando la lasciarono capii che era morta anche lei. Mentre si accingevano a continuare la violenza sulle altre due, mi misi in posizione da cecchino, sdraiato sulla pancia in mezzo all'erba con un piccolo cespuglio davanti alla canna e da cui la canna sporgeva, e freddamente cominciai ad uccidere quegli uomini. Nel corso dell'inverno mi ero allenato tanto, soprattutto con balestra e fucile ad avancarica, ma anche con il fucile da cecchino, ed ero diventato un tiratore più che discreto. Decisi di sparare prima a quelli che erano lontani dalle donne, per essere sicuro di non sbagliare, dato che erano in piedi. Erano a circa 50 metri. 50 metri, per un tiratore allenato, non sono molti. Per uno non allenato, moltissimi, credetemi, sia pure con un cannocchiale. Comunque ne uccisi tre prima che gli altri otto si accorgessero che c'era qualcosa che non andava. Smisero di violentare le donne ed estrassero le armi, ma non sapevano chi e come li attaccava, e riuscii così ad ucciderne altri tre. I due rimasti ripararono dietro il carro, avendo capito dal rumore degli spari e dal fumo dove ero, e furono raggiunti da altri tre che non avevo notato. Forse non avevano mai visto prima armi da fuoco in azione, ma erano evidentemente veloci ad imparare, e quella di imparare velocemente in combattimento sembrava essere una di quelle caratteristiche che la vita sul pianeta premiava con la sopravvivenza. Io l'avevo già imparato sulla mia pelle. Mi individuarono e da dietro il carro cominciarono a tirare frecce e verrettoni nella mia direzione, urlando come forsennati, tentando sia il tiro diretto, teso, sia quello a parabola. Quando un paio di frecce mi arrivarono troppo vicino, decisi di non rischiare oltre. Scesi dal dosso su cui mi trovavo, verso il torrente, e mi ci immersi fino al torace tenendo alte le armi e mi avviai fra le canne, verso il guado 30 metri più in là. Avevo notato un canneto fitto che arrivava fin sulla sponda del torrente e mi ci infilai, giungendo coperto, a ridosso del loro accampamento, vedendoli, di lato, nascosti dietro il carro. Loro continuavano ad urlare ed a lanciare frecce verso la posizione in cui ero prima. Due degli uomini, preso il coraggio a due mani, indossati elmi e scudi, estrassero le spade e si gettarono urlando verso la posizione che avevo occupato fino a pochi minuti prima. Io uscii, non visto, dall'acqua ed in punta di piedi dal lato opposto a quello in cui erano diretti loro. I tre dietro il carro non mi videro, ma le donne sì. Anzi, la donna, l'altra era svenuta. Tacque, guardandomi spaventata. Ero arrivato a 10 metri dagli uomini quando uno si voltò, mi vide ed urlò armando la balestra. Con l'Uzi falciai lui e l'uomo che gli era vicino, ma l'Uzi, forse per l'acqua, forse per altro, dopo la prima raffica si inceppò, proprio mentre un verrettone mi faceva il pelo alla guancia destra. La carabina era a tracolla e non feci in tempo ad impugnarla. Il terzo uomo mi si gettò addosso con la spada e rotolammo a terra. Non era più un'opera di giustizia, ma pure semplice lotta animale per la sopravvivenza. La cinta della carabina si staccò e l'arma rotolò via. Mentre lottavo con lui, i due che erano sulla collina si accorsero di tutto e tornarono correndo verso di noi. Non so come, uccisi il mio aggressore piantandogli il coltello in pancia. Mi volsi ai due che correvano verso di me, cercando di arrancare sulla spiaggia per raggiungere la carabina disperatamente. I due scesero e passando vicino alle due donne, in un accesso di furia, le colpirono entrambe. Il primo mi era addosso quando mi voltai con la carabina e premetti contemporaneamente il grilletto. Il colpo lo prese non a bruciapelo, ma letteralmente con la pancia attaccata alla canna della carabina, che per la compressione dei gas mi esplose fra le mani, stordendomi per un attimo. L'uomo fu praticamente tagliato in due. L'altro si fermò un attimo. Poi, vedendomi intontito e spaventato, riprese coraggio e venne verso di me ghignando. Alzò la spada sulla testa con entrambe le mani e un attimo prima che potesse abbassare le braccia era passato da parte a parte dalla punta di una lancia. Era una delle due donne, la più giovane, ferita, con le vesti stracciate ma ancora in grado di salvarmi la vita. Urlò qualcosa che non compresi. Era agitata, stravolta. Tornò indietro e si diresse verso l'uomo che avevo ferito, ed era ancora vivo. Gli prese il coltello dal fodero, gli disse qualcosa con una voce ed un tono dolcissimi e lo sgozzò. Si rivolse poi agli altri e controllò chi era ancora vivo. Tre erano in effetti solo feriti, fra cui quello che doveva essere evidentemente il capo del drappello. Uccise i primi due nello stesso modo, poi, sempre sorridendo e parlando dolcemente, si dedicò al terzo. Studiò le sue ferite e vide che era stato colpito alla spalla, probabilmente al polmone, e che respirava a fatica. Lo fece accomodare meglio. Gli mise un giaciglio sotto il petto per aiutarlo a respirare e mentre io la guardavo instupidito dalla lotta, dall'adrenalina e dalla percezione di ciò che avevo fatto, lei, serafica, gli aprì la giacca, gli tagliò la camicia e, denudandogli il petto, cominciò a torturarlo con il coltello. Non credevo ai miei occhi. L'uomo cominciò ad urlare e lei a ridere ed a singhiozzare al tempo stesso, sempre affondandogli il coltello nelle carni. Poi, approfittando della sua nudità, prese ad accarezzarlo sui genitali, sempre sussurrandogli qualcosa, questa volta con la bocca vicino alle orecchie. Cercava di eccitarlo, evidentemente, ed incredibilmente ci riusciva anche. Mi venne in mente di aver letto qualcosa del genere, una prassi sulla terra, non so se in Somalia o Tuareg, popoli presso i quali spesso erano le donne che torturavano i prigionieri. L'uomo urlò come un maiale scannato quando lei lo evirò. Lo spruzzo di sangue sembrò il getto di una fontana. L'urlo dell'uomo e quell'orribile spettacolo mi scossero. Raggiunsi la donna, la scostai con un braccio e con l'Uzi che avevo ricaricato, non si era inceppato, era solo finito il caricatore, lo uccisi con una breve raffica. La donna soffiò come un gatto arrabbiato e fece per attaccarmi con il coltello. Poi si fermò, non so se perché ci aveva ripensato o perché le puntai contro l'Uzi. Si voltò e si diresse verso la donna che era con lei. Si chinò e la scosse gentilmente. Quella disgraziata era ancora viva. Parlarono per un po', l'una con fatica, l'altra piangendo. Poi la giovane estrasse uno stiletto dai capelli della donna ferita e, quasi con delicatezza, pose fine alle sue sofferenze pugnalandola al cuore. Non dissi niente e non intervenni. Avevo visto la ferita della donna e non so cosa avremmo potuto farle, se non abbreviare le sue sofferenze. A quel punto la giovane assassina cominciò a piangere, lentamente, dolcemente, come di chi è solo triste e non sa perché. Io scesi al fiume, mi lavai dal sangue e dalla polvere che avevo addosso, poi tornai al carro, presi le mie armi, raccolsi una balestra e delle frecce e mi fermai vicino alla donna, ad un paio di metri. So che non mi capisci, ma sarà meglio che ti sforzi. Da un momento all'altro su questa strada potrebbe passare qualcun altro e potrebbero essere gli amici di questi assassini. Se vuoi venire con me, e feci il gesto di me e di lei ed indicai verso la montagna, devi venire ora. Lei mi guardò, pensierosa, poi si guardò intorno. Chi dice che il linguaggio è un povero mezzo di comunicazione? Ci sono momenti in cui ci si capisce perfettamente ed al volo, anche se non si parla la stessa lingua. Annuì con la testa, si alzò e fece una cosa che lì per lì pensai dimostrasse che era impazzita. Si spogliò completamente dei suoi abiti femminili e rimase nuda. Pur nello stato in cui ero, rimasi stupito da quanto era bella e muscolosa. Si diresse al suo carro e ne estrasse dei fagotti da cui trasse abiti da uomo, pantaloni, casacche, mantello e stivali, che indossò. Poi raccolse una cotta di maglia di una delle guardie e delle armi. Scelse una balestra leggera, una daga, uno stocco e tre faretre. Prese una sacca che riempì con dei viveri. Poi tornò verso la sua compagna e le sciolse dai capelli un nastro multicolore con il quale legò i suoi. Poi venne verso di me e mi guardò come a dire «Allora, bello, dove andiamo?» Tornammo alla mia capanna, anche se ci misi il doppio del tempo per fare dei giri lunghi e viziosi. Non volevo che lei potesse ricordare con facilità come ci si arrivava. Camminammo in silenzio ed in silenzio rimanemmo per le due settimane successive, non solo perché non parlavamo l'uno la lingua dell'altra, ma soprattutto perché lei, evidentemente, non aveva una gran voglia di socializzare. Io la mia l'avevo vista volatilizzarsi nel combattimento. Lei spesso piangeva, anzi, passò le prime 3 notti a piangere. Io no, passai le prime 3 notti sveglio. Non so se fosse la presenza di lei ad agitarmi o cosa, però pensai a lungo a cosa avevo fatto. Avevo ucciso degli esseri umani. Era un assassino come loro. Razionalizzai facilmente, è ovvio. Non c'era dubbio sul fatto che, almeno quelli che avevano ucciso in quel modo barbaro gli uomini e la prima donna, erano degli assassini che meritavano la morte. E dopo era stato semplicemente uno sporco e confuso affare. Ma avrei potuto evitarlo? E mi rispondevo di no, non avrei potuto. Se avessi tentato, mi sarei ritrovato prigioniero ed esposto a morte o a schiavitù. E quella era senza dubbio una civiltà schiavista. Ne avevo visti molti di schiavi in catene dentro al forte. E allora, alla fine mi accorsi che se stavo ancora lì a pensarci tanto era solo perché c'era una parte di me, un residuo di uomo civile, chiamiamolo così, che non credeva a quello che ero stato capace di fare e non lo poteva sopportare. Capito questo, decisi che di quella parte di me non me ne importava assolutamente più niente e mi addormentai. Dopo che lei fu uscita dal suo dolore, ci adattammo facilmente l'uno all'altra. Cominciammo a tentare di comunicare verso il 20° giorno che era lì, e fu lei ad insegnarmi la sua lingua. Era una buona cacciatrice ed una discreta cuoca. Così ci alternammo nel fare l'una o l'altra cosa, a turno, anche per partire da oggetti concreti ed azioni utili per imparare il suo vocabolario. La sua lingua. Già, beh, non sono un laureato in glottologia o filologia, o che... Parlo bene inglese e mastico un po' di francese e a scuola ho studiato latino. E questo è quanto per quel che riguarda la mia conoscenza delle lingue e della storia delle lingue. Però ricordo di aver letto che la radice di tutte le lingue europee è comune e che risale insieme al sanscrito alla famosa migrazione indoeuropea con relative lingue. E questo è particolarmente evidente mettendo a confronto le lingue europee per quel che riguarda alcune parole fondamentali, come madre, padre, eccetera. Beh, ripeto, io non ne so molto di lingue, ma la lingua che parlava lei era sicuramente una lingua di origine indoeuropea. Non riuscivo ad immaginare perché e decisi che non ci avrei sprecato sopra troppi pensieri. Ma era una lingua familiare, in qualche modo, molto meno aliena degli squali a 6 zampe che avevo visto in pianura o della neve. Fu facile impararla, anche perché non avevamo molto da fare e da quel punto, dopo un anno di solitudine, avere vicino una persona con la quale parlare e non poterlo fare, era una piccola tortura. Quando fummo in grado di capirci, mi raccontò la sua storia. Si chiamava Spiga di Grano, per via dei suoi capelli biondi. Era una ballerina ed una acrobata, e quella massacrata al guado era la sua famiglia. Era tradizione delle ballerine della sua tribù, una tribù di nomadi diffusa ovunque, disse lei, fare l'amore a pagamento, soprattutto con i nobili dei castelli dove andavano a fare i loro spettacoli. Anche sua madre e sua sorella, le 2 donne uccise, lo facevano e i loro mariti non ci avevano mai trovato niente da ridire, anche perché era quasi impossibile sfuggire alle mire dei principi locali, quindi tanto valeva approfittarne. Ma mai nessuna di loro sarebbe entrata in un harem di un fatricios, un nobile. Prostitute sì, tranquillamente, ma sempre libere di scegliere e di dire di sì o no. Il fatricios, comandante del forte, giù nella valle, era di altro parere e quando lei si era rifiutata le aveva mandato dietro quegli armigeri per punire lei e la sua famiglia. Ma era solo una questione di tempo. Era un lares, un uomo morto che cammina, anche se ancora non lo sapeva nessuno. Uomini e donne della sua tribù erano tutti addestrati al combattimento per necessità e quelli che aveva ucciso al guado non erano i primi per lei. Devo dire che era affascinante, bella, energica, spietata e dolce al tempo stesso. Mi faceva, onestamente, anche un po' paura. Facemmo l'amore alla fine del 3° mese che era da me, e fu lei a sedurmi. Anzi, dovrei dire, fu lei a quasi violentarmi. Una abitudine degli abitanti di quel pianeta, a quanto sembrava. Un giorno, al ritorno da una impegnativa caccia, arrivati nella radura con un cervo di traverso ad una sbarra, ci fermammo a riposare, ansanti. Lei disse che era affamata, estrasse il coltello ed aperto il fianco del cervo ne tirò fuori il fegato ancora fumante, che morse avidamente. Ne mangiò un paio di morsi emettendo gridolini di piacere, poi ne tagliò una fettina che pulì bene, con la lingua peraltro, sporcandosi più che mai il mento di sangue, e me la offrì ridendo ed emettendo piccoli grugniti e guaiti, come giocando. Io risposi al gioco e morsi il fegato e lo staccai a morsi dalle sue dita. Così facendo le morsi leggermente e per caso le dita. Lei me le lasciò mordere, anzi, spinse un po' di più le dita verso le labbra e la bocca. Io continuai a mordicchiarle, ma giuro che per me era niente di più che continuare il gioco. Per lei però no. Si fece seria, smise di guaire e mi si avvicinò. Mi abbracciò ferocemente, quasi per bloccarmi, ansando eccitata. Poi mi gettò a terra e mi si mise sopra. E mi baciò quasi con violenza, con la sua bellissima bocca sporca di sangue di cervo. Facemmo l'amore lì all'aperto fino a sera, sotto il sole e sull'erba, e devo dire che, sarà stato per l'astinenza di ormai quasi 2 anni, sarà stato per le circostanze, ma fu qualcosa di veramente memorabile. Dopo mi disse che non capiva perché non l'avessimo fatto prima. Lei si aspettava da un momento all'altro che io la prendessi, era ovvio, me lo doveva, non fosse altro per gratitudine, ma credeva di non piacermi, o che non volessi o non potessi farlo, per un voto o per impotenza. Solo per questo aveva aspettato tanto, e quella mattina non aveva proprio resistito, la caccia la eccitava sempre. Una belva. M'ero messo in casa una belva, io che non avevo neanche convissuto con una donna in vita mia per paura di perdere la mia libertà. Quando Spiga di Grano mi chiese come mi chiamavo, gli dissi che non lo sapevo più. Lei sorrise e disse che allora il nome me lo avrebbe dato lei. Ci pensò un po', poi sorrise e disse: «Ecco, l'ho trovato. Quando ti ho visto la prima volta, quando mi hai salvato la vita al fiume, io ho pensato che tu fossi il dio del fiume perché eri bagnato e venivi dall'acqua. E quel fiume si chiama Mosto, come l'uva che fermenta nei tini per fare il vino. E tu sarai Mosto, il guerriero dai grossi attributi virili con le armi che tuonano e che vive sulla montagna». E rise con la più bella risata che io abbia mai sentito in vita mia. Qualche volta ho pensato che la pelle liscia delle donne giovani, bionde e di carnagione chiara sia una buona prova dell'esistenza di Dio. L'inverno venne e passò, ma quasi non me ne accorsi questa volta. C'era Spiga di Grano a farmi passare il tempo con una velocità incredibile. Quando la primavera tornò, le dissi che dovevo tornare a valle. Lei non mi chiese nemmeno perché, disse solo una cosa: «Quando partiamo?» Avete ascoltato Il Leggio, podcast di lettura di testi liberi.